GR24, il sole 24 ore. Taranto, tromba d'aria sull'Ilva a crolli, un disperso, 20 feriti, una gru in mare. E la pioggia flagella anche Toscana e Liguria, ancora allagamenti in Lunigiana e in Maremma. L'Argentina ad un passo da un nuovo default se non pagherà 1.300.000.000 agli hedge funds. Egitto, 6 condanne a morte per il film contro l'Islam. Una buona giornata di nuovo da Simone Spezia e dalla redazione di GR24. Naturalmente in apertura gli aggiornamenti da Taranto dopo la tromba d'aria che ha colpito la città e soprattutto in questo caso lo stabilimento dell'Ilva. La nostra inviata Raffaella Calandra in diretta. Raffaella. Sì, buongiorno Simone. Il cedimento di due camini e della torre faro, il crollo dei nastri d'acciaio e un'evacuazione di fatto e una tromba d'aria che non dà pace all'Ilva. Mentre decine di sirene, sia di ambulanze che di vigili del fuoco, ancora corrono verso l'acciaieria, si chiarisce un po' in più il quadro della situazione dopo il passaggio della tromba d'aria. Erano le 10.30 circa quando io stessa, che mi trovavo al quartiere Tamburi, che è qui vicino, ho visto, come vi ho raccontato nella Breaking News, un mulinello formarsi proprio al di sopra della nube che sempre copre l'Ilva. Sono caduti i camini di due batterie, la torre a faro, dei capannoni all'imbarco dei prodotti. Volava di tutto, pezzi di cemento pesantissimi, ci hanno raccontato degli operai che sono scappati perché temevano il rischio di evacuazione, temevano il rischio di esplosioni dal momento che si trovavano in una zona con la presenza di gas. Ci risultano 26 feriti e un disperso in mare. In questo momento tutta la zona intorno all'Ilva è stata chiusa per precauzione, per cui anche le strade provinciali che portano verso Statte in questo momento sono bloccate, così come il fatto che un fulmine abbia colpito delle linee elettriche ha bloccato la linea ferroviaria tra Bari e Taranto, almeno per un qualche momento, non so in questo istante se sia stata ripristinata o meno. Era circolata la voce di dispersi, pare che siano, l'azienda anche smentisce la presenza appunto di infortuni gravi, però sappiamo che ci sono 26 feriti e di sicuro in tutta la città ci sono stati crolli di alberi e molti danni. Simone. Grazie dunque alla nostra Raffaella Calandra, ovviamente, e come sempre se ci saranno ulteriori aggiornamenti ve li daremo. E parliamo delle altre situazioni critiche per il maltempo, pioggia e vento su molte regioni per l'arrivo del nuovo ciclone Medusa. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta per 7 regioni, scusate, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio e Campania. Situazione critica soprattutto in Toscana. È Massa Carrara, la provincia più colpita al momento dalla nuova ondata di maltempo. La situazione è di nuovo critica nelle stesse zone colpite dall'alluvione di 2 settimane fa. Esondazioni, allagamenti e frane stanno provocando forti disagi alla popolazione e alla circolazione. Una 50 le famiglie evacuate in Lunigiana e a Carrara, dove il centro storico è finito letteralmente sott'acqua. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, decine le strade chiuse. Nella notte è rimasta interrotta anche la linea ferroviaria Pisa-Genova. Allarme anche nel Grossetano, ad Albinia, particolarmente colpita dall'alluvione del 12 novembre scorso. Alcune famiglie sono state fatte evacuare per precauzione. Frane e allagamenti anche in Liguria. Un nubifragio si è abbattuto nella notte sullo Spezzino e a Venezia oggi l'acqua alta potrebbe arrivare a 130 centimetri. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di quello che sta succedendo nello stabilimento Ilva a causa della tromba d'aria. Veniamo a fare il punto sulla situazione industriale. Oggi proteste negli altri luoghi dove vi sono stabilimenti Ilva, in particolare a Genova. Sentiamo Claudio Nicolini, segretario della FIM CISL genovese, intervistato da Andrea Ferro. È chiaro che questo per noi è un momento difficilissimo, perché ne va della sopravvivenza di un, diciamo così, un settore strategico come quello della siderurgia in Italia. È chiaro che noi abbiamo una grande speranza nell'incontro di giovedì, ossia che il ministro Monti proprio faccia questo decreto legge in modo da concernere la bonifica del sito di Taranto con il lavoro. Questo permetterebbe di bonificare un'area veramente messa male, ma permetterebbe anche di mantenere 25.000 posti di lavoro in Italia e la prosecuzione del lavoro negli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Noi ci auguriamo che finisca questo braccio di ferro tra governo, magistratura e l'azienda, un braccio di ferro che sta portando, diciamo così, non è utile a nessuno, soprattutto per i lavoratori, ma non è utile nemmeno al sistema industriale italiano. E timori ci sono anche in Piemonte. Quello di Novi Ligure in provincia di Alessandria è il secondo polo produttivo Ilva per importanza dopo Genova nel nord Italia. Questa mattina c'è stata la prima assemblea fra gli operai in vista della mobilitazione di domani a Palazzo Chigi, nel pomeriggio le altre. Dal Piemonte partiranno 4 pullman secondo le stime delle organizzazioni sindacali. A Novi si lavora a ciclo continuo con i coils che arrivano da Taranto, si producono lamierati destinati per lo più al settore dell'auto e agli elettrodomestici. Col blocco di Taranto c'è autonomia per 2-3 settimane, dicono i sindacati. Qui lavoriamo a ciclo continuo anche il sabato e la domenica, spiega Moreno Bacchina, delegato della FIM, e il blocco di Taranto è stato un fulmine a ciel sereno. In Piemonte sono 1.500 i lavoratori legati all'Ilva, 1.000.000 gli addetti diretti. Oltre a Novi, 800 unità, c'è lo stabilimento di Racconigi, dove ieri 180 lavoratori hanno scioperato per un'ora. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Se l'Ilva di Taranto viene chiusa, quello stabilimento viene abbandonato, i vantaggi per l'ambiente sono zero, mentre i rischi per la salute sono altissimi, dice il ministro dell'Ambiente Corrado Clini alla trasmissione TV La Telefonata. Sentiamo un passaggio del suo intervento. A noi interessa risolvere i problemi, non aprire dei conflitti, e mi auguro che la magistratura assuma in modo responsabile piena consapevolezza del suo ruolo, che è molto importante. Noi non contestiamo affatto l'iniziativa della magistratura, che punta a individuare le responsabilità dei reati che sarebbero stati eventualmente commessi dall'Ilva nel corso della gestione degli impianti, però nello stesso tempo siamo molto fermi su un punto: la responsabilità delle procedure per la gestione degli impianti non è della magistratura. Abbiamo parlato delle proteste dei lavoratori dell'Ilva. Ebbene, ci sono altri lavoratori che protestano oggi. Due infermiere sono salite stamattina presto sul tetto dell'ospedale San Raffaele di Milano per protestare contro il piano di licenziamenti avviato dall'amministrazione. Lo ha raccontato il coordinatore dell'RSU dell'ospedale, Angelo Mulè. L'azienda nei giorni scorsi in realtà si è detta ancora una volta disponibile a valutare un piano alternativo appunto ai licenziamenti collettivi. Graziella Monacelli è una di queste due lavoratrici appunto salite sul tetto. Noi abbiamo posto degli obiettivi che sono ragionevolissimi. Uno, una visibilità che possa essere nazionale, una lotta che ha una valenza, una nobiltà, una simpatia che è nazionale, nel senso che i cittadini che vengono a San Raffaele sono di tutta Italia, e davanti alle televisioni nazionali che l'amministratore delegato dichiari di presenziare d'ora in poi tutte le trattative e che possa prendere in considerazione la possibilità di sospendere, non di ritirare, ma di sospendere almeno fino a che, insomma, il tavolo serio e conseguente possa attivarsi, sospendere la procedura. Le primarie del centro-sinistra, il dibattito resta forte e aperto, e questa sera ci sarà quello televisivo sulla Rai tra Renzi e Bersani. Il sindaco di Firenze è intervenuto questa mattina a 24 mattino, ospite di Alessandro Milan. I vendoliani, se sono contro l'apparato, mi spiega come fanno a votare Bersani ed avere in omaggio nel pacchetto anche D'Alema, la Bindi e Ferdinando Casini? Che, insomma, chi vota Bersani non è che si prende solo Bersani, si prende il pacchetto completo, no? Per cui, secondo me, i vendoliani non votano per l'apparato. Giovedì Bersani e Vendola insieme fanno un bel accordone, una bella iniziativa insieme a Napoli, perché è naturale. Ma l'accordone cosa vuol dire? È un accordo politico, come dire, votami e io poi ti porto al governo, deve per forza fare una coalizione. Non è che mi può chiedere qual è il contenuto dell'accordo secondo politico lei? Bersani e Vendola. Io le posso dire che io l'accordo politico non lo faccio con nessuno di questi, ma per un motivo molto semplice: perché se vogliamo cambiare, bisogna cambiare anche il gruppo dirigente. Loro sono tutti insieme un po' all'ultimo giro di giostra. Il punto di Stefano Folli. Pierluigi Bersani sembra aver compreso che le primarie non si vincono limitandosi a inseguire i voti di Vendola, anche perché il significato politico che ne deriverebbe, un asse, diciamo così, neocomunista, sarebbe mal giudicato in Europa e non costituirebbe il miglior biglietto da visita per presentarsi agli elettori fra 4 mesi, quando ci sarà da conquistare i consensi dei ceti cosiddetti moderati. Bersani ha dunque capito che la carica innovativa di Renzi e anche la sua idea, magari confusa, di sinistra molto liberale, è un patrimonio da acquisire, non da combattere. Ecco allora la tentazione di offrire al sindaco di Firenze una vera e propria cogestione del PD dopo le primarie. Sarebbe un gesto molto radicale, perché nascerebbe così un nuovo centrosinistra e andrebbe in soffitta tutto un vecchio mondo con i suoi personaggi e i suoi rituali. Sarà così o è un espediente in vista di domenica? Vedremo. Di sicuro Renzi è in grado di rubare molti voti a Bersani. Bersani invece non attira, sulla carta almeno, i voti di Renzi e neanche al di fuori del recinto del PD. E veniamo a parlare di legge elettorale, perché oggi c'è stato un messaggio importante del Presidente della Repubblica. Giorgio Napolitano torna a farsi sentire per chiedere alle forze politiche di arrivare ad un accordo sulla riforma della legge elettorale. Lo fa con un messaggio inviato a Roberto Giacchetti, il deputato del PD, che oggi ha interrotto lo sciopero della fame iniziato 88 giorni fa per sollecitare la riforma del Porcellum. Basta a questo interminabile braccio di ferro, al gioco degli equivoci dovuto al ripetuto alternarsi di opposti irrigidimenti, scrive il capo dello Stato, che nella lettera ricorda anche come nei suoi ultimi incontri sulla legge elettorale tutti, compresi i rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento, si erano detti convinti della necessità di modificare la legge del 2005. È essenziale, conclude Napolitano, che questo impegno non venga tradito. Il suo monito arriva a poche ore dalla decisione di posticipare alla prossima settimana l'approdo in aula al Senato della riforma elettorale. Nonostante il rinvio, PD e PDL assicurano che si avvicini ad un'intesa. Al centro del confronto c'è il cosiddetto lodo Calderoli, la nuova proposta del padre del Porcellum, che prevede una complessa serie di premi di maggioranza variabili da assegnare alla lista o alla coalizione di liste che otterrà il maggior numero di voti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le auto blu sulle quali ha viaggiato il sindaco di Brescia, Adriano Paroli, tra il 2009 e il 2010 sono state sanzionate per eccesso di velocità 47 volte. Altre 38 volte sono state sanzionate nel 2011. Ora Equitalia chiede 21.000 euro in cartelle esattoriali. Lo scrivono oggi alcuni giornali bresciani. I tutor hanno rilevato velocità di 170 e anche 200 km all'ora. In alcuni casi le sanzioni sono addebitate al vice sindaco Fabio Rolfi, che le avrebbe già pagate. Paroli ha fatto sapere che una volta accertata la sua presenza sulle auto pagherà di tasca sua. Parliamo di mercati con lo sguardo concentrato oggi sulle banche, in particolare sulle banche spagnole. Valeria De Rosa, buongiorno. Ben ritrovato Simone e te, nostri ascoltatori. Allora, la notizia di oggi è che la Commissione Europea ha approvato i piani di ristrutturazione di 4 banche spagnole, tra cui il Banco de Valencia e Bankia. Questo via libera permetterà poi alle banche, appunto iberiche, di ricevere l'aiuto dal ESM, dal Meccanismo di Stabilità Europeo, quindi un passaggio fondamentale. Nel frattempo arrivano le notizie sul piano di ristrutturazione di queste banche, anche in particolare di Bankia, che nel 2012 perde 19 miliardi di euro e taglierà 6.000 posti di lavoro. Il piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione Europea prevede un ritorno all'utile già dal 2013, questo appunto per quel che riguarda Bankia. In Europa l'andamento per quel che riguarda i listini è debole, negativo, segno meno per tutte le piazze del vecchio continente fin dalle prime battute di questa seduta. Parigi cede uno 0,36%, Francoforte lo 0,21%, Londra cede lo 0,31%, Piazza Affari cede mezzo punto percentuale. In difficoltà il comparto bancario, in particolare a Piazza Affari, dove il Banco Popolare è il peggior titolo, cede il 4,77%, ma giù anche Monte dei Paschi, che cede poco meno di 3 punti percentuali. Unicredit cede 1,5% e Intesa San Paolo 1 punto circa. Pochissimi titoli che guadagnano, allunga il passo però Pirelli, più 2,31% in questo momento, Autogrill guadagna l'1,10%, Telecom Italia lo 0,89%. Debole euro su dollaro, ancora in calo 1,28%, 8,99 in questo momento, mentre il differenziale tra BTP e Bund è intorno ai 325 punti base. Oggi molto bene l'asta dei bot a 6 mesi, collocati 7,5 miliardi, con tassi ai minimi sotto la soglia dell'1%. Per i mercati è tutto. Grazie dunque a Valeria De Rosa, e noi in qualche modo continuiamo a parlare di mercati perché questa notte è arrivato il taglio del rating, ossia del giudizio da parte di Fitch sull'Argentina, ha tagliato il giudizio di 4 gradini ad un passo dal default, in questo caso un default tecnico, dopo che un giudice di New York ha condannato l'Argentina a pagare 1,3 miliardi di dollari ad una serie di hedge funds che li chiedevano in base appunto al default del 2001. In realtà, in studio con noi Roberto Darin del Sole 24 Ore, che con l'Argentina fa sempre avanti e indietro. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Allora, a questo punto il nuovo default dell'Argentina sembra veramente vicino. Speriamo di no, tutto è possibile, non si possono ancora prevedere gli esiti di questa vicenda, che in effetti è paradossale, perché l'Argentina è l'unico paese che ha pagato nelle ristrutturazioni che ha proposto ai risparmiatori, quindi alcuni hanno già percepito dei ritorni interessanti, compresi tra il 60 e l'85% in termini di interesse, che altri possessori di altri titoli, Cirio, Parmalat e altro ancora, non hanno mai incassato. Quindi paradossalmente, se questo default avverrà a causa di una sentenza di un giudice americano di 82 anni, il paese potrebbe ripiombare nel baratro, e il dramma è che in questo momento né in Europa né negli Stati Uniti c'è bisogno di altra instabilità. Brevemente, Roberto, in realtà il paese è anche in una condizione economica abbastanza preoccupante, c'è un'inflazione fortissima, proteste di piazza che sono tornate, e crescita forse non abbastanza energica per un paese in quella situazione. Ecco, no, non è proprio così. È vero, c'è un'inflazione molto alta, attorno al 25%, e questo è un nodo chiaro che tutti gli osservatori internazionali hanno messo a fuoco negli ultimi anni, anche perché questa inflazione procede a ritmi sostenuti da tempo, questo sì, però la situazione congiunturale è completamente diversa da quella del 2001, in cui c'era un vincolo, innanzitutto un peso, un dollaro, quindi c'era un cambio che non permetteva svalutazioni, perché è un cambio fisso, di parità fissa tra peso e dollaro, che non consentiva svalutazioni competitive, che invece sono avvenute negli ultimi tempi. Quindi la situazione congiunturale ha dei punti di criticità, questo senz'altro, ma la situazione generale è ben diversa da quella in cui sprofondò nel default nel 2001. Quindi, se si dovesse presentare un default, paradossalmente sarebbe stato più provocato da fuori che da dentro, ecco. Chiarissimo, grazie Roberto Darin per questi aggiornamenti. Una condanna esemplare, cambiamo argomento, restiamo all'estero, è stata chiesta in Egitto per il film anti-Islam, sentiamo. Condanna a morte. E questa è la richiesta per i 6 imputati copti che si trovano negli Stati Uniti, accusati di aver prodotto il film anti-Islam L'innocenza di Maometto, che arriva dai giudici dell'Alta Corte per la Sicurezza Centrale egiziana. Il film, lo ricorderete, sbeffeggiava Maometto e aveva suscitato numerose proteste nel mondo islamico, fino anche quella a Bengasi, che diventò il pretesto per l'assalto all'ambasciata americana, sfociato poi nell'assassinio dell'ambasciatore Chris Stevens. Mark Basselley Youssef, autore della discussa pellicola, tra l'altro è stato recentemente condannato in California a un anno di carcere, non in relazione a questo fatto, ma per aver usato false identità e aver compiuto altre violazioni dei termini di libertà condizionata imposta nel 2010 dopo una condanna per frode. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura andiamo su Marte, virtualmente si intende, perché insomma pare che siano state trovate tracce di precursori della vita, è così Gigi Donelli? Allora, la notizia che arriva è appunto di fatto del ritrovamento, si fa per dire, da parte di Curiosity, quindi la sonda al lavoro, il rover al lavoro su Marte, di precursori della vita. Ne abbiamo parlato, c'è agitazione in queste ore, il tema ovviamente molto delicato. Precursori non vuol dire molecole biologiche, questo in fondo è quello che noi cerchiamo, cioè qualcosa che cresce autonomamente. Ma c'è anche una storia, se vogliamo, mediatica intorno a questo annuncio. L'annuncio arriva da Roma, dal responsabile del Jet Propulsion Laboratory della NASA, cioè il luogo dove vengono gestite tutte le esplorazioni del sistema solare, che ha annunciato in questa circostanza italiana una conferenza stampa per lunedì prossimo a San Francisco. Quindi in realtà è un'anticipazione di notizie che ci portano verso San Francisco lunedì per sentire davvero che cosa ha trovato appunto la sonda Curiosity. E lunedì vi racconteremo tutto, naturalmente. Grazie dunque a Gigi Donelli, un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia che ha condotto e curato questa edizione di GR24, in regia Matteo Comes. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Bentrovati da Roberta Pellegatta. Debutto nazionale oggi per il musical Frankenstein Junior, il capolavoro di Mel Brooks, già film cult, è in scena al Teatro Brancaccio di Roma da questa sera fino al 9 dicembre. Veste i panni del famoso dottor Frankenstein, Giampiero Ingrassia. Sentiamolo ai microfoni di Elisabetta Fiorito. Rispetto al film c'è un ritmo sicuramente molto più serrato. Poi ci sono le canzoni scritte appositamente da Mel Brooks per la versione teatrale di Frankenstein Junior. Però insomma, diciamo che il 90% è il film. C'è gente che dice le battute prima che noi le diciamo, questo ci fa molto piacere. Lo spettacolo è molto divertente, tra creazioni di mostri, di creature, cimiteri, però il tutto è condito dalla sana ironia di Mel Brooks. Da Roma a Milano, dove la natura fa bella mostra di sé al Museo Minguzzi grazie all'evento Wildlife Photographer of the Year, mostra che ha debuttato al Museo di Storia Naturale di Londra e che presenta 100 spettacolari fotografie naturalistiche selezionate tra 41.000 all'ultima edizione dell'omonimo concorso internazionale Scatti da Oscar, dove la natura incontra l'arte fotografica. Roberto Di Leo, presidente di Radice di 1%, che organizza la mostra. Sono degli scatti veramente di altissima qualità. Sono incantato da uno scatto di un orso polare in acqua di questo fotografo francese, ha fatto questo scatto in Canada, quest'orso che gli si presenta davanti a 2 metri nella didascalia. Le didascalie, vorrei aggiungere, che sono proprio un valore aggiunto della mostra, perché oltre a raccontare la storia dello scatto, raccontano anche i dettagli tecnici che tante volte al visitatore possono interessare. In questo caso lui spiega che si sono addirittura toccati in acqua. C'è anche una volta, un primissimo piano di una volta, uno scatto fatto a 60-70 cm con un grand'angolo, è eccezionale anche quello. La musica, le idee, la storia dei CCCP e dei CSI adesso è raccolta in un DVD più CD. 30 anni di ortodossia, questo è il titolo, è il progetto voluto dal chitarrista e compositore dei due gruppi Massimo Zamboni, che sul palco si esibisce accompagnato dalla voce di Angela Baraldi e da altri compagni di viaggio, tra cui Nada. Pezzi, quelli dei CCCP e dei CSI, ancora attuali, secondo Massimo Zamboni. Io credo che abbiano un senso profondo anche nel 2012. Ce l'hanno per la mia vita, perché a questo punto, dopo 30 anni che sono su dei palcoscenici, mi fa molto piacere dare un piccolo e veloce sguardo all'indietro per vedere tutto quello che è stato. E allo stesso tempo la cosa che mi colpisce molto sono la continua novità delle canzoni dei CCCP e dei CSI, che sono diventate patrimonio nazionale in un certo senso in questi anni. Appartengono a tutti, è molto bello vedere ragazzi molto giovani che vengono ai nostri concerti e conoscono tutte le canzoni nate molto prima di loro. Quindi il senso sta in questa riproposizione, nella gran voglia nostra di suonarle e nella gran voglia del pubblico di ascoltarle. 30 anni di ortodossia da ieri nei negozi, mentre prosegue il tour. Tra le altre date, Massimo Zamboni e Angela Baraldi saranno il 30 novembre al Blum di Mezzago, Milano, e il 15 dicembre all'Orion Light Club di Roma. Torniamo a Milano, dove in occasione dell'inaugurazione della nuova stagione del Teatro La Scala, questa sera alle 18 nell'Aula Magna dell'Università Cattolica, il maestro Daniel Barenboim terrà una lezione concerto per presentare il Lohengrin di Richard Wagner. L'ingresso alla lezione è libero fino a esaurimento posti. Ed è tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Una buona giornata da Roberta Pellegatta.